sul canale. Riusciresti a immaginare oggi Bologna come una città d'acque? Come Venezia, per esempio, con tanto di canali navigabili, porticcioli, imbarcazioni che trasportano le merci dalla periferia al centro della città e viceversa. Considerando la conformazione attuale dell'area urbana, richiederà di certo una buona dose di immaginazione. Eppure era così che appariva Bologna fino a un paio di secoli fa. All'interno delle mura c'era un reticolo di corsi d'acqua, alcuni navigabili, i cui principali erano il Reno, l'Aposa, il Savena e il Valle Scura, ai quali si affiancava una serie di canali minori per un percorso complessivo di circa 60 chilometri di vie d'acqua. Questa breve premessa ci conduce al luogo del secondo dei sette segreti di Bologna. Lungo via Piella, una traversa di via Augusto Righi, fino al punto in cui, ricavata su un muro, è presente una finestrella con tanto di battenti. Da qui si può sbirciare un tratto del canale delle Moline che si snoda tra le abitazioni. Questo angolo della città è conosciuto come la Piccola Venezia, per via della similitudine con gli scorci della città lagunare. Analoga la visuale dall'affaccio dal ponte di via Malcontenti, dove è ben visibile l'unico guazzatoio rimasto in città. Un accesso comodo all'acqua che era utilizzato per lavare i carri o per abbeverare gli animali. Da via Oberdan è possibile scorgere il canale del Reno che scorre tra gli edifici, ancora oggi parzialmente scoperto, all'altezza della cosiddetta curva degli annegati. Il canale delle Moline è una parte del tratto cittadino del Reno, chiamato così perché nell'antichità arrivò a servire fino a 15 mulini da seta, un'attività questa che è stata determinante per l'economia di Bologna tra il XIII e il XVII secolo, periodo in cui fu il maggior polo tessile d'Italia. L'altro ramo del Reno si chiama Cavaticcio, scorreva nell'antico alveo del rio Vallescura e alimentava altri mulini e il porto navile. Per dare un'idea di quanto la produzione tessile fosse sviluppata a Bologna, basti ricordare che nel XVI secolo quasi la metà degli abitanti si guadagnava da vivere grazie a questa attività. Si trattava di un vero e proprio sistema proto-industriale che permetteva di esportare filati in tutta Europa. Grazie al canale navile che attraversa la pianura padana fino al Po di Primaro, infatti, si poteva raggiungere agevolmente le acque del mare Adriatico. Oggi il Po di Primaro non riceve più acque, ma un tempo era un ramo del Tizio del fiume Po. Nel periodo di massimo sviluppo dell'attività tessile, a Bologna erano presenti ben 119 mulini da seta, che operavano con una tecnologia protetta da un vero e proprio segreto industriale. Ancora oggi, infatti, sono oscuri alcuni aspetti del funzionamento del cosiddetto mulino alla bolognese, che permetteva di produrre filati più uniformi e resistenti rispetto a quelli prodotti a mano o con altri mezzi meccanici. Esistono pochissimi disegni che ne illustrano il funzionamento, proprio per il rischio che la concorrenza si appropriasse della tecnologia. Fu emanato persino un decreto che stabiliva la morte come pena per lo spionaggio. Oggi, al Museo del Patrimonio Industriale, è possibile osservare le ricostruzioni degli antichi mulini. Anche la flotta navale di Bologna si sviluppò di pari passo, arrivando a competere con quella di Venezia. Storica la battaglia di Polesella del 1271, in cui la Serenissima venne sconfitta nelle acque del Po di Primaro e i bolognesi ottennero dazi favorevoli al loro commercio. Nasce da queste considerazioni la leggenda metropolitana che Bologna sia una città d'acque, proprio come Venezia, appunto. Ma a dire il vero, il suo territorio è praticamente privo di risorse idriche superficiali naturali. Gli unici corsi d'acqua che la attraversano sono il torrente Aposa e il rio Vallescura, entrambi di portata modesta, mentre nelle vicinanze scorrono il torrente Savena e il fiume Reno, che non hanno una portata costante. Al punto che i Romani, per assicurare acqua pulita alla città, dovettero andare a prelevarla sull'Appennino, nelle vicinanze dell'odierna Sasso Marconi. Intorno al 15 a.C., durante il dominio dell'imperatore Augusto, per convogliare le acque del fiume Setta costruirono un acquedotto sotterraneo lungo quasi 20 chilometri. Quando smise di funzionare, dopo la caduta dell'impero romano, la città si trovò per secoli quasi completamente dipendente dai pozzi per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. Una contraddizione, dunque? Solo in apparenza. Fu infatti un insieme di grandi opere di ingegneria a rendere possibile l'approvvigionamento delle acque a Bologna, con la costruzione di un ingegnoso sistema idrico artificiale. A partire dal XIII secolo, le acque del Savena e del Reno vennero convogliate verso il cuore della città tramite un sistema di chiuse, originando così i canali omonimi, il Canale delle Moline e il Cavaticcio. Scrisse Benedetto Morandi nel 1481. Nessuna città ha guadagnato e guadagna tanto a beneficio pubblico e privato dal corso naturale di un fiume, quanto Bologna dal corso artificiale del canale. Per aumentare la portata del Reno, venne sbarrato anche il torrente Dardagna, un affluente del Panaro, operazione che fu causa scatenante dell'ennesima controversia con i modenesi. Parallelamente, si cercò anche di ottimizzare quanto arrivava dall'Aposa e dal Rio Vallescura. Per azionare i meccanismi leggeri dei mulini da seta era sufficiente un piccolo salto d'acqua e per questo ogni cantina posta sotto il livello dei canali venne dotata di una presa d'acqua. Proprio in via Oberdan è ancora possibile riconoscere un raro esempio di edilizia popolare cinquecentesca, le abitazioni dei Mugnai progettate dal Vignola. Lo stesso architetto progettò nel 1548 il porto principale della città, che nel corso della sua storia ne ha avuti ben cinque, e che sorgeva nell'attuale via Don Minzoni. Era da qui che partivano le barche dei commercianti alla volta di Venezia, che era raggiungibile in circa 40 ore di navigazione. La Salara è l'unico edificio che testimonia la presenza del porto, sebbene si tratti di un ampliamento settecentesco dell'originale magazzino del sale. L'acqua in passato non è stata utilizzata soltanto come fonte di energia per i mulini e per il movimento delle merci. Ne sono esempio la pellacaneria della Grada, dove venivano conciate le pelli, e l'edificio dell'antica manifattura tabacchi, in via Riva di Reno, in cui nell'Ottocento le acque del canale erano utilizzate per operare le macine che trituravano le foglie di tabacco. Dipendevano principalmente dall'energia fornita dal Reno pescherie, maceri, cartiere, canapifici e segherie. Tra le più importanti opere idrauliche presenti a Bologna ci sono il sostegno del battiferro in via del Navile, chiusa attribuita a Leonardo da Vinci che consentiva alle imbarcazioni provenienti da fuori città di superare agevolmente i dislivelli del canale Navile, e naturalmente la monumentale chiusa di Casalecchio di Reno, la più antica d'Europa ancora funzionante, che incanala le acque del Reno in città e che è stata recentemente riconosciuta patrimonio dell'UNESCO. La Grada, in Viale Vicini, è il punto di ingresso per le acque all'interno delle mura e deve il suo nome alle grate di ferro che fungevano da filtro per i detriti che avrebbero potuto ostruire le condutture e danneggiare le ruote idrauliche dei mulini. Nel corso degli ultimi due secoli, i canali sono stati progressivamente interrati nell'ambito di una riqualificazione urbanistica della città e della sua economia, i cui ultimi interventi risalgono agli anni 60 del secolo scorso. Continuano quindi a scorrere sotto la città, sebbene con una portata ridotta, e della loro posizione rimane la testimonianza nella toponomastica. Ne sono esempi via Riva di Reno, via del Porto, via delle Moline e via delle Lame, che deve il suo nome alla parola lama, che significava fanghiglia. La leggendaria